pronto? Fiato sospeso? Si comincia! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, vi chiedo di segnarvi il numero, cominciare già adesso a telefonare perché oggi vi voglio tutti qui fino alle 15.30 per partecipare alla Fiera dell'Est, perché finalmente è estate e finalmente leggere i giornali la mattina dà una soddisfazione. Ciao Pier. Ciao, come va? Finalmente, io non so, sai quanti giocatori sono stati accostati all'Inter questa mattina? Dai, dimmi un numero. 27. No, poco meno. Io sono fermo a 15, però è una cosa meravigliosa. Poi in realtà ci sono anche storie interessanti, ne parleremo. Io voglio sapere anche dagli amici da casa, ad esempio, cosa pensano della questione di Tevez e della Juventus. 800 24 00 24, pure c'è questo Milan scatenato che da qui a qualche ora potrebbe annunciare Jackson Martinez e poi non fermarsi. Però Pier, oggi noi partiamo con uno dei protagonisti di questi giorni. Ieri abbiamo fatto Oddo, che è l'allenatore del Pescara che ha perso il playoff per salire in Serie A. Oggi invece parliamo con chi sta ancora festeggiando. Non c'è più tempo, finisce qui. Il Bologna torna in Serie A dopo l'1-1 e lo 0-0 dell'andata. Questi sono i rumori della festa di Bologna. Delio Rossi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio Delio, intanto complimenti ancora, Pier, bisogna fare complimenti perché il ritorno di Bologna in Serie A è comunque una bella notizia per tutti, per il calcio italiano, Pier. Assolutamente, ma senza fare poi discorsi che potrebbero metterci su un terreno spinoso e poi comunque alla fine conta sempre il campo, al di là dei bacini di utenza, però insomma Bologna è una grande città, non lo scopriamo certamente noi. Volevo chiedere al mister qual è stata la difficoltà maggiore di questo breve percorso, in questo lei e Otto eravate insomma accomunati, no, da un destino appunto comune, quello di essere arrivati alla fine, di dover sistemare le cose. Otto ha fatto un grande lavoro, lei mi sembra abbia gestito veramente in maniera con grande esperienza la situazione. Qual è stata la cosa più difficile? Ma la cosa più difficile è stata soprattutto questo gruppo che aveva i folloni dei pronostici, a differenza magari del Pescara che non aveva i folloni dei pronostici, e quindi doveva cercare in tutte le maniere di andare su di categoria. E quando sono arrivato ho visto che c'era qualche difficoltà, soprattutto a tenere dal punto di vista mentale questo fatto di essere favoriti, soprattutto che l'ambiente ha visto i playoff come una condanna, a differenza di altre squadre che invece l'hanno visto come un trionfo, come un coronamento, e lì è stata difficoltà, e poi dovevi fare presto e bene, molte volte due cose non coincidono. È difficile fare presto e bene. Ha sofferto, ho letto da qualche parte, tantissimo in quegli ultimi minuti della partita di ritorno, ma anche all'andata in realtà. Insomma, Pescara credo le ha fatto passare dei brutti quarti d'ora. Sì, ma dal punto di vista tecnico non nascondo che Pescara ha giocato meglio di noi. Noi forse siamo andati più rapidi mentalmente, loro avevano la testa più libera e forse stavano meglio sulle gambe rispetto a noi. Quindi l'ho detto prima, il fatto di giocare in casa con una squadra che sta meglio di te, forse anche più organizzata in questo momento rispetto a noi, e tu devi fare il risultato per forza, non è facile. Direi sì, mi sembra in qualche modo, mi lancio un paragone spericolato, qualcosa di simile a quello che è successo nel basket ieri sera fra Milano e Sassari. Chiudo il volo pindarico, volevo capire dal mister cosa serve a questa squadra per fare un campionato tranquillo l'anno prossimo, nel senso che comunque ci sono stati dei problemi, la squadra è arrivata un po' spompata mentalmente come ci diceva lei, però insomma occhio e croce, mi sembra che ci siano delle qualità in questo gruppo. Quanto serve per fare il campionato che volete fare l'anno prossimo? Ma io un'idea ce l'ho, adesso ne parlerò con la società, anche perché più che voi lo devo dire la mia società, secondo me quello che serve, l'importante è che però ci sia la proprietà, che era importante che ritornasse di categoria, anche perché ha investito molto su questo, su questa città, e soprattutto il fatto della promozione ti porta dell'entusiasmo, dell'entusiasmo, e su questo entusiasmo poi bisogna costruire una squadra, secondo me, competitiva per il nostro obiettivo, che è quello che sicuramente è di fare un campionato all'altezza della situazione. Ma lei che ha una certa esperienza, ne ha tanta anzi di esperienza, di che scuola di pensiero è? Cioè quella che chi sale dalla B alla A ha poi più vantaggi a mantenere inalterato un tipo di squadra che ha fatto un percorso tecnico, emozionale, o di quelli che poi per fare la Serie A servono giocatori di categoria? La mia esperienza dice che non tutti i gruppi sono uguali, cioè, poi dipende come arrivi, se vinci il campionato in carrozza, non so, tipo il Palermo, cioè magari meno bisogno di fare dei cambiamenti, se lo vinci stentato, molto probabilmente qualche cambiamento lo devi fare. Sì, qualcosa, anche se il Bologna, lo ricordiamo, esce da un mercato invernale con nomi già da Serie A e quindi comunque parte già su un'intelaiatura importante. Noi adesso abbiamo il traffico, io chiedo un minuto di pazienza a Pierluigi Pardo, ovviamente anche a Delio Rossi. 800 24 00 24, poi ripartiamo da qui. Spot per noi, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Sai, Pier, qual è la curiosità che io ho? È la stessa mia. È una domanda che voglio fare a Delio Rossi, che ha iniziato a lavorare col Bologna, se non sbaglio, mister, il 9 maggio, giusto? Sì. Ha ottenuto la promozione in Serie A il 9 giugno. A logica, uno dice, difficile entrare nella pelle di una città, di una società, di una squadra con soltanto un mese di lavoro. E invece? Invece mi sono messo a disposizione dei giocatori, non all'ora mia, ma bensì io a loro disposizione, perché ho detto, ho trovato un ambiente abbastanza giù quando sono arrivato, soprattutto tra i giocatori, perché c'era questo fatto di dovere per forza vincere il campionato, e molte volte questa pressione ti fa sì che magari non sei neanche sereno per fare il nostro mestiere, e avevo bisogno che, e non loro che si mettessero a mia disposizione, ma io a loro disposizione, per dargli una mano, sia dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista anche emozionale, e piano piano di far sì, di fargli capire che la gente dipendeva da loro, il fatto che magari si era leggermente allontanata, e se volevano riportarli dovevano solo giocare all'altezza della situazione. Pier. Beh, in questo credo ci sia un'analogia fra una grande città di calcio come Bologna e la parabola di Dario Rossi, che secondo me è un valore in assoluto recuperato, importante per il grande calcio. Gli chiedo, a proposito del suo passato, se ci aspettava una Lazio così quest'anno, che è tornata in Champions dopo tanti anni e lei ne sa qualcosa, e poi anche dal punto di vista umano, insomma, comunque oggi sulla prima pagina c'è questa inchiesta sullo Tito, ovviamente noi siamo per la presunzione di innocenza, ci mancherebbe altro, bisogna aspettare tutto, e qui siamo proprio all'inizio, no? Si parla di una persona che è stata indagata su un'inchiesta, quindi potrebbe essere archiviato, si potrebbe andare a procedimento, ma comunque è su tutti i giornali, quindi le chiedo una sensazione da questo punto di vista, se si sente di dire qualcosa. No, sul discorso della Lazio ho fatto un campionato sopra le righe, secondo me è meritato, anche perché non fare solo che dal punto di vista estetico forse è la squadra che ha giocato secondo me il miglior calcio, soprattutto mi sembra che è una squadra molto futuribile, perché ci sono molti giocatori che hanno una giovane età e mi sembrano veramente dei giocatori importanti, e devo dire che è stato molto bravo Pioli, perché ha convinto tutti, soprattutto chi non giocava, perché gli hanno dato una grossa mano nei momenti che ci stanno nella stagione, però devo pensare ai Laides, ma quelli che giocavano con meno costanza, gli Shani, e devo dire che è stato molto bravo, e quindi è andato meritatamente in Champions. E sul discorso di Lotito, onestamente io non ho avuto tanto tempo di leggere i giornali, però mi dispiace se persone che conosco sono indagate in certe situazioni che hanno poco di campo, hanno più di altre situazioni, e onestamente io non sono uno che gioisce delle disgrazie altrui, anzi mi dispiace. Si è fatto un'idea, Delio, perché ci siano tanti allenatori, diciamo di prima fascia o almeno presunti tali, che in questo momento sono senza panchina in Italia? Cioè siamo al momento di un ricambio generazionale o è soltanto un caso? Ancelotti, Mazzarri, lo stesso Montella, e poi ce ne sono tanti di questi nomi, Prandelli, Donadoni, vedremo se e dove riuscirà ad andare. Cosa sta succedendo? Ma il calcio, come la vita, è in evoluzione. Chiaramente c'è quelli che sono più giovani che stanno spingendo, mi sembrano anche bravi, e devo dire che poi c'è anche il discorso economico. Il discorso economico, molte volte si fanno anche delle scelte, certe volte azzardate, certe volte anche folcloristiche, e molte volte sono anche scelte guardiolesche, cioè nel senso che di inventarsi allenatori d'amblè, e poi magari poi si va su persone che in un certo qual senso che hanno un pedigree, hanno uno spessore e soprattutto hanno vissuto certi momenti, però penso che questo faccia parte della vita, che ci sia un certo ricambio, e soprattutto penso che noi che siamo meno giovani dobbiamo in un certo qual senso migliorare, perché sappiamo che c'è questa competizione. Sì, Guardiola ha fatto anche dei danni, Pier, il guardiolismo, sì, non tanto Guardiola, che per carità è il numero uno. Solo che ogni tanto, visto che non ci sono soldi, si inventano allenatori dall'oggi al domani, invece è un mestiere che, come tutti i mestieri, ci vuole la gavetta, ci vuole personalità, e ci vuole i giusti tempi, perché uno sicuramente c'ha anche le potenzialità, però se parti dall'alto e non hai le spalle larghe, rischi di fare come Icaro, ti avvicini al sole e rischi di cadere. Sì, e in tanti è successo in questi anni, anche in club importanti. Grazie Delio Rossi. Buona vacanza a voi. Grazie, buone vacanze, anche se adesso c'è il mercato, Pier, io non so se anche il nostro Delio Rossi può riposare. 800 24 00 24. A proposito del mercato, io sono, Pier, te lo devo confessare, affascinato in queste ore dalla vicenda di Tevez. Ti faccio sentire un paio di audio. A Tevez va attribuito un grande rispetto, e quindi, come capita spessissimo nel mondo del calcio, il destino dei giocatori è proprio nella loro testa, e quindi se Tevez intende lasciare la Juventus per fare una scelta di vita alternativa, questo sarà solo lui a deciderlo. Noi prendiamo atto, certamente è una cosa che non ci possiamo trascinare nel tempo, dobbiamo arrivare a una conclusione velocemente. Beh, se ci sono queste voci, preoccupato un po' sì, perché sono due grandissimi campioni che hanno e spero potranno dare ancora tantissimo alla Juventus, quindi mi auguro soprattutto Andrea, di non salutarlo qui dopo la nazionale, che sia ancora con noi, e lo stesso Carlos, però sinceramente non lo so, vedremo cosa sceglieranno, se ci saranno comunque delle vere notizie sul loro futuro. Questi sono Marotta e Marchisio ieri sulla questione Tevez, poi c'è anche Pirlo, ci sono altre cose. Allora Pier, io ti dico come la penso. Sì. Io penso che la Juve farebbe bene a stringere la mano a Tevez, chiedere al suo procuratore di portare un'offerta adeguata al valore di mercato e a salutarlo, perché il comportamento di Tevez nei confronti della Juve è stato poco corretto negli ultimi 2 mesi. Da quando in quella celebre intervista all'aeroporto di Buenos Aires ha spiegato che lui non aveva le idee chiare, di fatto dicendo no alla proposta di rinnovo di contratto, fino ad arrivare ad adesso che tratta con l'Atletico Madrid, neanche con il Boca. Sì, ecco, diciamo che questo cambia le cose, anche se poi da un punto di vista pratico forse potrebbe portare più soldi nelle casse della Juve. Sicuramente Tevez ha le idee confuse, non ci sono dubbi. Io credo che sia stato onesto Marotta nel dire che comunque, per quello che Tevez ha fatto, per il modo nel quale è arrivata la Juve, insomma, l'investimento è stato comunque vincente, comunque andrà a finire. Tevez ha dato tutto, sicuramente negli ultimi 2 mesi non è stato brillante come prima, però ha fatto comunque complessivamente una grande stagione, e adesso gli viene riconosciuta la possibilità di decidere il suo destino. Però Piera, anche questa cosa della riconoscenza, cioè, ma con un limite, un anno fa di questi tempi la Juventus con un tweet impediva ad Antonio Conte di andare al Milan, che fossero questioni di stimoli, di rapporti, di tutto quello che vogliamo, però la Juventus ha preso la situazione in mano e ha chiuso secondo quelle che erano le proprie esigenze. Io non capisco che riconoscenza debba avere verso Tevez più, ad esempio, di quella che poteva avere verso Conte. Sì, però con Conte c'è stato a parte che il Milan va a arrivare diretta dalla Juve, l'Atletico Madrid, il Boca Juniors sicuramente meno anzi la puoi incrociare in certe azioni che l'Atletico, però insomma è un po' diverso come tipo di contesto. Io ma comunque leggo anche della, diciamo, del fastidio poi in questa ultima dichiarazione di Marotta, quindi non sicuramente alla Juve si stanno un po' rompendo le scatole, ecco, di questo tipo di situazione, mentre un mese fa sembrava veramente una storia d'amore, va bene, non vuoi rimanere con noi, vai in Argentina per quello che hai dato, per quanto ti abbiamo pagato, cioè zero praticamente, più sì, chiaramente l'ingaggio. Quasi zero, Tevez è stato zero, pagato sì, complessivamente sì, quasi una ventina di milioni di euro, tra bonus, sì, commissioni sì, per gli agenti, perché poi i numeri insomma sono anche diversi alle volte da quelli che vengono raccontati, tant'è vero che per andare via Tevez non è che può andare via gratis, cioè la Juve non è che lo può regalare. No, certo, ma certo. Io però dico che qui mai come in questo caso la volontà del giocatore è decisiva, cioè la Juve non tratterrà Tevez contro la sua volontà, su questo non ci sono dubbi. Se andrà in Argentina farà una scelta di vita, se andrà in Europa la Juve proverà a monetizzare il massimo possibile, mi sembra che si sia già mossa ampiamente sul mercato per seguirlo. Sì, io Piero ho un'idea diversa, io credo che la Juve debba fare quello che conviene, cioè se Tevez rinnova resta, altrimenti se ne va, perché questa è l'estate in cui la Juve può investire, sta investendo, anche tenersi Tevez per un ultimo anno sapendo che poi andrà via a parametro zero. Assolutamente. Lega le mani, vincola, la Juve vuol prendere Cavani, non lo prende se resta Tevez. Allora, o Tevez ha un progetto a medio termine, non dico lungo, oppure secondo me grazie, arrivederci e portaci un'offerta. Io trovo che in questo la Juve debba prendere una posizione forte. A me sembra più no che sì, cioè mi sembra più probabile che vada via, per quello che sentiamo, per il giro del fumo che sentiamo in questi giorni, tra voci sui giornali, interessi di altri club, queste dichiarazioni di Marotta, cioè, se il giocatore vuole rimanere rimane. E siamo d'accordo con te che tenerlo in scadenza insomma sarebbe un errore. Poi sai, questo è un ciclo che in qualche modo si è chiuso a Berlino, perché Tevez sperava di poter chiudere in maniera diversa, ma che insomma comunque è arrivato a un compimento. O riparte con un contratto nuovo, oppure credo che andrà via. Sì, oppure la Juve ha tutti i diritti di fare una scelta diversa, almeno noi la pensiamo così. 800 24 00 24, siamo in onda fino alle 15:30, quindi raccogliamo anche i vostri pensieri, su quello che sta succedendo in casa Milan, Pierre, perché si stanno avverando i sogni più belli dei tifosi rossoneri, che non più tardi di 2 settimane fa erano in depressione. Beh, e oggi scoprono di avere un mercato fantastico alle porte. Mi sembra che i primi segnali del mercato del Milan siano incontrovertibili, nel senso che insomma o veramente siamo all'Actor Studios oppure qualcosa è cambiato. Poi se stanno recitando, recitano bene. Ecco sì, poi se arriverà Ibra non arriverà, Jackson Martinez, questo lo scopriremo solo vivendo, come diceva Battisti, però sicuramente è cambiato il passo del Milan sul mercato, anche se poi in realtà il Milan anche a gennaio non è che si fosse mosso male, però si muoveva su delle situazioni, su delle opportunità di mercato che potevano esserci. Cerci che aveva fallito l'Atletico Madrid, Paletta con il Parma in difficoltà, cioè erano acquisti legati a delle opportunità, delle occasioni di mercato, però quando vai all'asta perché c'è qualcosa, qualcuno in difficoltà. Sì, erano movimenti del contorno, ma mi sembra invece sta recitando la protagonista. Esatto. Sì, abbiamo la borsa, Pier, ti richiamo alle 3, va bene? Così atterro, spero, insomma c'è ottimismo sull'atterraggio. A dopo. La borsa, torniamo subito, 800 24 00 24. Battaglia, andiamo da Nando San Vito, Nando. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Lo che he dicho en ese momento que me han preguntado si venía con una idea de renovar el contrato, yo he dicho que no, porque davvero, yo pienso de que es un pensamiento, no es algo que uno dice no, sono cerrado, no quiero firmar, no, es un pensamiento, yo sono così, yo no quiero mentir a la gente, no, porque para mí sería fácil hoy arribar y decir sí, voy a firmar un contrato de 5 años de più con la Juve e dopo no cumplire con questo. Se mi lasci non vale, mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, no, nunca, no se me ha pasado por la testa questo, no. Yo pienso de que con mis compañeros voy a ser en cuando soy campeones, cuando salimos campeones o cuando no. Voy a estar con mis compañeros porque he firmado 3 años en la Juventus y quiero terminar mi contrato aquí, ¿no? Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Yo sono tranquilo y con esta tranquilidad la porto dentro del campo pensando solamente en la Juve y no en mi futuro. Yo no he decidido nula y pienso continuar hasta como ha dicho el director, ¿no? Fino al 2016. Sí, como ha dicho. Allora, il tema non è che Tevez sia un mercenario, come ha scritto un amico, Stefano di Torino, al 349-238-6666, non doveva nemmeno essergli data la maglia numero 10 che fu di Alessandro Del Piero. Il tema non è quello, il tema è che secondo me la Juventus già da un paio di mesi sbaglia a farsi portare a spasso da Tevez, che se voleva tornare in Argentina, doveva dirlo chiaramente 2 mesi fa, se aveva in testa altre cose. Fa come tutti gli altri, si porta dietro un'offerta adeguata e lascia la Juventus libera di muoversi sul mercato. Io la penso così. 800 24 00 24. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Io adesso voglio sentire un po' gli ascoltatori. Leonardo dalla provincia di Trapani. Leonardo? Sì, buongiorno. Eccoci. Io la penso come lei, nel senso che se Tevez vuole andare via, che vada, perché non si può tenere nessuno contro voglia. L'unica cosa, non credo che possa essere Mandzukic il sostituto, a meno che non si voglia completamente cambiare la squadra, cioè il modulo di giocare. Sì, Mandzukic è un giocatore diverso, ma la Juve ha già preso un altro giocatore profondamente diverso da quelli che ha avuto quest'anno, che è Dybala, che tutti raccontano come una seconda punta, ma che a Palermo ha fatto bene giocando praticamente da solo, con dietro Vázquez, che era un numero 10, oltretutto di Vale giovane, quindi anche questa è un'incognita su cui la Juve deve lavorare. Secondo me è legato al fatto che se dovesse voler continuare a vincere il quinto scudetto e riprovare la Champions, c'è bisogno di un attaccante di un altro peso. Sì, okay. Però può arrivare se non c'è Tevez. Io non credo che la Juventus possa presentarsi l'anno prossimo. Faccio un nome, Cavani, facciamo il nome di Cavani. Con Cavani, Tevez, Morata, che l'anno prossimo deve partire titolare, con Dybala, che comunque è un investimento da 40 milioni di euro. Per questo dico, il nodo di Tevez deve essere sciolto in fretta e deve essere sciolto con piena soddisfazione tecnica ed economica della Juventus. La volontà del giocatore conta, perché se vuole andarsene se ne va, ma conta le condizioni della Juventus, un po' come un anno fa è stato per la stessa Juventus per Conte. Io la penso così. Carmine da Reggio Emilia. Carmine. Sì, buongiorno, salve. Io sono da Reggio Calabria comunque, non da Reggio Emilia. Reggio Calabria, scusami, prego. Sì, allora io volevo fare 2 considerazioni veloci sulle mie 2 squadre del cuore per le quali io faccio il tifo. Allora, una è la Roma e volevo dire sul Nainggolan. Secondo me la Roma farebbe bene a venderlo, perché la Roma ha Strootman, De Rossi, Pjanic, c'è Florenzi e centrocampo. Io penso che quei soldi che andrebbe a prendere li potrebbe investire su un portiere, su 2 terzini e su un attaccante, che sono quelli che realmente servono alla Roma. Poi volevo fare un'altra considerazione sull'altra mia squadra del cuore. È vero però anche che De Rossi nell'ultima stagione ha mostrato limiti fisici legati forse anche all'età, e Strootman comunque viene da 2 infortuni brutti, quindi che si faccia qualche ragionamento sull'idea di tenersi Nainggolan, io credo che sia legittimo da parte della Roma, però prego. Sì, vabbè, io penso che De Rossi è più un problema di testa, se gioca con la testa libera De Rossi è un gran giocatore. Poi volevo fare l'altra considerazione veloce sull'altra mia squadra del cuore, che è il Barcellona, e volevo dire che ha fatto un grande errore a tenersi Dani Alves, perché ha preso Vidal, che è un grandissimo giocatore, a me piace tantissimo, io ho fatto i salti di gioia quando l'abbiamo preso, però adesso con Vidal rischiamo che troviamo 2 grandi giocatori e di cui uno però deve rimanere fuori. A sto punto io a Dani Alves l'avrei lasciato andare, perché Vidal secondo me è molto più forte. Sì, Carmine, posto il fatto che Vidal non giocherà a settembre nel Barcellona, tu sai che c'è il blocco di mercato e quindi quelle che fa oggi il Barcellona in entrata sono operazioni che nella migliore delle ipotesi poi diventeranno utilizzabili in campo, spendibili a partire dal 1 gennaio, nella migliore delle ipotesi. In alcuni casi magari si tratta di operazioni con ingresso nella prossima stagione, quindi io penso che in questo momento il Barcellona avesse le mani legate e avesse l'assoluta necessità di fermare Dani Alves. Mi fate sentire Tavecchio sullo Tito. Tavecchio, io in relazione alla indagine in corso a Napoli ho ricevuto la Procura della Repubblica di Napoli e in qualità di persona informata sui fatti ho dato delle risposte. Ci sono state chieste dei documenti e abbiamo consegnato. Non abbiamo nessun problema dal punto di vista della trasparenza e della correttezza. Finito il discorso. Questo Tavecchio. Oggi lo Tito si difende e dice: chi mi accusa diventerà a sua volta accusato, pronto a farmi sentire dai magistrati. A proposito di notizie che hanno più a che fare con le pagine di cronaca che con le pagine di sport, non è ancora finita l'inchiesta della magistratura calabrese, filone del calcio scommesse. Questa mattina sono scattati 17 arresti tra persone che erano già in carcere o ai domiciliari. Si tratta di personaggi che giravano intorno alla Serie D e alla Lega Pro. L'impressione però è che questa sia una storia ancora molto lunga da scrivere. Matteo Da Lucca. Matteo. Sì, buongiorno. Eccoci, grazie. Buongiorno. Sono tipo della Juventus. Volevo dire due cose. Prima, comunque era a Berlino e devo ringraziare comunque la squadra che comunque abbiamo fatto, una cosa straordinaria, andata come andata, però insomma va rinviando ringraziati comunque. Sì. La seconda è su Tevez, secondo me è tutto tra virgolette apparecchiato già da tempo, nel senso che quando la Juve ha preso Dybala non credo che spenda 32 milioni di euro di 8 di bonus per fargli fare la panchina, quindi secondo me Tevez ha già comunicato da tantissimo tempo. Ma io invece ho l'impressione che non sia così, Matteo, e mi pare che il nervosismo di Marotta in queste ore lo dimostri e lo confermi. Cioè la Juventus probabilmente si è trovata davanti a uno scenario che non immaginava, che non era tanto quello della possibile partenza di Tevez, ma quanto del fatto che a Tevez mancassero gli stimoli per restare nel calcio italiano, ma ad esempio non pensando di tornare in Argentina ma pensando di andare all'Atletico Madrid. Questo è uno scenario che difficilmente la Juventus può accettare. Poi io credo che con Dybala, per come conosco l'ambiente Juventus, era fatto almeno in partenza un ragionamento molto simile a quello che è stato fatto per Morata, che fino all'anno scorso era l'investimento più alto fatto da questa dirigenza sul mercato. Morata, prima di trovare il posto da titolare, ha avuto un adeguato periodo di ambientamento. Io credo che su Dybala la Juventus non farà errori. E attenzione però, perché è un giocatore non semplice da collocare tatticamente. Poi scrive un amico al 349-238-6666: Tevez se ne va perché non crede al tecnico, scrive Lauro. Io non credo, anzi mi sembra che quest'anno Allegri alla Juventus abbia confermato tutto. E poi c'è Massimiliano da Cesena che dice: pensavano che con lui sarebbe filato tutto liscio, dovevano ricordarsi di cosa è successo al Manchester City. La verità è che con Tevez è filato tutto liscio per 2 stagioni. È questo finale che la Juventus ha bisogno di risolvere in fretta. 800 24 00 24, traffico, poi abbiamo un grande ospite di basket. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Rimane lì la palla, finisce la partita, la Dinamo Sassari espugna per la seconda volta in questa finale il Forum di Assago, ma la cosa più importante è che per la prima volta nella sua storia andrà a giocare una finale scudetto. Ieri sera al Forum si è vissuta una serata dai due volti. C'è stato il dramma sportivo di Milano, perché la caduta gara 7 delle semifinali contro Sassari è un fallimento sportivo su tutta la linea. E poi c'è stata la grande gioia di Sassari. Saluto Meo Sacchetti, coach di Sassari. Meo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. È stato un dramma sportivo per Milano ed è stata, come la vogliamo definire, un'impresa fuori pronostico per Sassari, o siamo ingenerosi? Ma per come si era messo, eravamo andati sul 3-2, sembrava fatta a nostro favore, poi ha fatto 3 pari con l'altra partita in casa. Le sfide tra noi e Milano sono state sempre particolari, cioè grandi vantaggi recuperati, partite finite che poi non erano finite, e ci si poteva aspettare una partita così. Prima di questa partita qua avevano giocato 10 partite, 5 partite a testa, con l'esatto punteggio di tutte e due le squadre per vedere questo equilibrio. Sì, perché c'è questo paradosso: Milano era ovviamente favorita all'inizio di questa semifinale, lo era ieri sera prima di gara 7, lo era forse a metà partita di gara 7, però è vero che se poi si va ad analizzare tutta la stagione, nei momenti decisivi Sassari è stata superiore. Sì, praticamente nelle partite secche, sia la Supercoppa che la Coppa Italia, noi abbiamo fatto delle gran partite. È logico che arrivando a gara 7 sono gare, anche lì una partita secca, quasi una finale, può succedere di tutto. È logico che tutto è stato anche in quel canestro del pareggio alla fine, però ci può essere stata anche un po' di fortuna, ma noi abbiamo preso due rimbalzi, perciò c'era proprio la voglia di aspionare questo canestro, di cercare di giocarcela fino alla fine, perché può essere un caso prenderne uno, ma due, c'era proprio questa voglia di essere pronti, di giocarcela fino alla fine. Sì, voglia che forse è mancata un po' a Milano, quell'ultima azione del periodo regolamentare è stata un po' l'immagine della stagione di Milano. Ah beh, lì no, io è difficile che mi metto a parlare delle altre squadre. No, però se non è fortuna e se per prendere due rimbalzi lì vuol dire che ci devi essere, ti devi essere preparato. Io credo mentalmente più che tatticamente, credo sia una questione di approccio. Lì, sai, voglio dire, è un po' una cosa di questione di rimbalzi, ma come ti ho detto, quando ce ne sono due di seguito vuol dire un'attenzione, sono stati bravi i nostri. Sono stati più reattivi per giocarsi l'ultima palla, diciamola così. Essere arrivati a gara 7 sciupando due match point, io credo avrebbe ammazzato un toro dal punto di vista psicologico. Come si fa a tenere insieme una squadra, tra l'altro con playoff che si giocano ogni 48 ore, quindi hanno un ritmo particolare? Ma io ho dei giocatori particolari sotto certi aspetti, che ogni tanto danno per scontato certe cose e allora poi si va incontro anche delle brutte figuracce. Però sono molto orgogliosi, oltre che essere dei buoni giocatori, ogni tanto abbiamo questi vuoti, un po' di memoria, vuoti un pochetto di squadra, perché anche nelle due partite perse avevamo avuto anche buoni vantaggi, poi ci siamo un po' spenti. Però siamo una squadra fatta in questa maniera, che sia nel bene che nel male non ci abbattiamo, però abbiamo recuperato partite importanti. 800 24 00 24. Meo, se posso chiederti una cortesia, c'è Antonello da Catania che so che vuole parlare della semifinale di ieri e dell'impresa di Sassari, così lo sentiamo insieme. Antonello, buonasera. Eccoci. Grazie. Soprattutto grazie al mister, che veramente ha dato delle profonde emozioni con la sua squadra. Mi stavo chiedendo una cosa, se posso fare una domanda al mister: quanto è fondamentale l'idea della comunità della Sardegna che vi segue in modo così forte e così sensibile? Perché mi pare che ci sia una sorta di immedesimazione, come succede al Cagliari Calcio, tutta l'isola nei vostri confronti. Come la sentite voi dal punto di vista sia della squadra che della società? Coach. Ma beh, sicuramente questo è cresciuto dai tempi della promozione della Lega 2 e tutto, e poca volta ci siamo identificati non solo in Sassari ma in tutta la Sardegna, e adesso voglio dire sentiamo ambasciatori di questo modo di essere sardo, e l'abbiamo fatto anche in Coppa, e sentiamo effettivamente adesso che c'è proprio questa isola che ci sta un po' dietro. Questo ci inorgoglisce molto, perché voglio dire, i sardi si sentono anche un popolo sardo, molto orgoglioso, testardo e tutto, e perciò è meglio non stuzzicarlo. Sì, c'è un senso di identificazione profondo. Scrive un amico al 349-238-6666, grande Sacchetti, sfortunato nella finale con Pesaro di tanti anni fa, riscattati quest'anno. Ho letto da qualche parte una sola finale da giocatore con ginocchio rotto, questa è l'esperienza di Meo Sacchetti. Perciò questa non la gioco, sto in panchina e spero di non farmi male. Sì, da questo punto di vista dovresti essere tranquillo. Oh, però c'entrate da favoriti in questa finale o no? Cioè cambia un po' il quadro psicologico? Ma sai, la gente diceva questo, di essere favoriti da questa parte della finale. Intanto noi non abbiamo il vantaggio del fattore campo. Penso che la squadra che andremo ad incontrare sia contenta di, sia più contenta di incontrare noi che Milano, sicuramente. Penso che sia Reggio Emilia che Venezia, e in un'eventuale finale speravo di incontrare noi e non Milano, perciò voglio dire. Sì, sulla carta pronostico più aperto, il tifo da Torino, scrive Giuseppe, sarà per Meo Sacchetti da domenica sera. La serie di finale, poi stasera scopriremo chi è l'avversario. Grazie a Meo Sacchetti. Niente, a voi. Grazie a Meo Sacchetti, coach di Sassari. Alberto da Milano. Alberto. Sì, pronto, buongiorno. Ecco. Io volevo fare una considerazione sul Milan. Sì. E specialmente su Ibrahimovic, cioè il probabile possibile acquisto di Ibrahimovic, a me dà l'idea proprio che il Milan sia gestito da persone anziane, ma anziane non solo di età, ma anche dei tanti di mente, perché guardano solo indietro, vedi casi Kakà, vedi casi Shevchenko, adesso Ibrahimovic, e poi non capisco dov'è questa convenienza, voglio dire, io ho fatto, cioè, facendo quattro calcoli, se Ibrahimovic costa 7 milioni all'anno netti, che sono 14 lordi, viene fuori, e compreso l'ingaggio, viene fuori una cifra spaventosa, circa 50 rotti milioni. Ma dov'è la convenienza di comprare un giocatore? Guarda, Berre, io credo che Ibrahimovic sia uno dei pochi giocatori che da solo è in grado di spostare un buon pacchetto di punti. E quindi, se la scommessa del Milan è nella prossima stagione di fare una squadra forte che possa garantire o almeno portare il Milan a essere vicinissimo a tornare nei primi tre posti della Champions, è semplicemente un investimento di carattere economico. E comunque il Milan non sta trattando solo Ibrahimovic, il Milan è davanti a un mercato importante, il Milan sta trattando Jackson Martinez. E a ore potrebbe esserci l'accordo, anche se oggi il procuratore dell'attaccante colombiano ha spiegato che c'è anche l'offerta di un altro top club, però le cose sono cambiate al Milan dopo la cessione delle quote a Mister B, e questo lo stiamo verificando sul mercato. Io credo che il Milan l'anno prossimo avrà una squadra sicuramente più forte di quella di quest'anno, ci vuole un po' di pazienza. Nel senso che non tutto si può fare in un anno, in un anno non si può colmare il gap dalla Juventus e forse nemmeno dalla Roma, però mi sembra che l'investimento su Ibrahimovic possa essere un investimento che può pagare subito e quindi un investimento intelligente. 800 24 00 24, noi poi parliamo di Milan, giusto? Sì, poi parliamo di Milan, GR, torniamo subito. Finisce qua, senza recupero il primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Gira il mondo, gira, e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cosa è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Ci sono notti che ti fanno diventare grande. Noi rimaniamo per sempre come siamo a 18 anni. Ci sono notti che non si possono dimenticare. Lo ricordo piacevole, perché l'ho proprio affrontato in maniera un po' scanzonata quell'esame. Ci sono notti tutte da vivere e da rivivere. Non è che l'ho detto io che gli esami non finiscono mai. Questo lo dico anche ai ragazzi che domani inizieranno questi esami. Ragazzi, quella è una delle frasi più vere che troverete in tutta la vostra vita. Ci sono notti come la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto martedì 16 giugno dalle 21 alle 24 in diretta per trascorrere insieme le ultime trepidanti ore prima dell'esame. Voci e ricordi di chi ha già affrontato la maturità, paure ed emozioni di chi sta studiando, i consigli degli esperti e l'imbocca al lupo dai personaggi più amati dai ragazzi. La notte prima degli esami, una notte di tutti. Raccontaci la tua al numero verde 800 24 00 24 e sul sito radio24.it. In collaborazione con studenti.it. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Ciao a tutti. Oh, ricordati, sono venuto qui per vincere e questo anno vinciamo tutto. Grazie! Cuore rossonero, Zlatan Ibrahimovic! Io non so quanto vale un Milan con Ibrahimovic e Jackson Martinez in attacco. 8-0-0-24-0-0-24, poi certo c'è anche tutto il resto che va costruito dietro. A centrocampo ci sono i contatti con il Genoa per Bertolacci, poi c'è la difesa, Abate ha appena rinnovato fino al 2019, quindi si stanno muovendo tante cose intorno al mercato del Milan. 8-0-0-24-0-0-24. Tra qualche istante vi do anche le ultime su Jackson Martinez, perché c'è un rallentamento. Marco da Milano, Marco. Pronto? Eccomi. Sì, no, io volevo semplicemente dire, è una considerazione e provocazione. Ricordiamoci che domenica prossima ci sono i ballottaggi elettorali, quindi queste operazioni di Berlusconi già le conosciamo. Sì, Marco, però io insomma ho l'impressione che questo discorso possa essere stato valido per un'ampia fetta dell'ultima parte della storia del Milan. Mi pare che da una decina di giorni a questa parte forse qualcosa più, se vogliamo ricostruire tutto. Il Milan si è entrato in una nuova era, poi io penso soltanto tra un annetto capiremo esattamente la portata di quello che è successo e esattamente quali sono i rapporti di forza e gli accordi tra Berlusconi e Mr. B. Però è evidente che se Galliani sta facendo il giro d'Europa e adesso vi leggo quali sono le parole dell'agente di Martinez, comunque sta trattando in maniera seria giocatori di quel livello, io non penso, Marco, che sia soltanto una questione di carattere puramente elettorale. Alfonso da Caserta, Alfonso. Ciao ragazzi. Ciao. Prego. Senti, io volevo parlare un attimo della Juve, no? Anche se non so, sì, che sono una anti-Juve, però simpatizzo per la Juve. Sì. Io voglio sapere una cosa. La Juve non è l'Empoli o il Cesena, ma questo Tevez vuole andare via, vuole stare lì a Torino. Cioè una società come la Juve non può perdere tempo. Senta Cavani, che è una grandissima bomba, e poi si vedrà, non può perdere tempo vicino a Tevez, giusto? Non lo so. Sì, no, non può perdere tempo, però Alfonso, stai lì, non è che la Juventus, pur essendo ricca, pur avendo incassato 100 milioni dalla Champions League, può fare quello che vuole senza badare ai conti, e quindi ad esempio un giocatore importante come Cavani difficilmente arriva in una rosa in cui c'è un giocatore altrettanto importante anche dal punto di vista economico come può essere Tevez. Per questo la Juve ha bisogno di capire in fretta che cosa fare di Tevez, che cosa vuole fare Tevez, e non può restarne prigioniera. Furio Fedele, ciao Furio. Buongiorno, sì, mi sembra una considerazione giusta, anche se ormai mi sembra che la situazione sia abbastanza definita. Anche Tevez evidentemente ha voglia di, non di Argentina, ma ha voglia sicuramente di un altro club. Ieri la Di Marotta è stato molto chiaro, molto giusto: la Juve ha una tempistica, deve prendere delle decisioni importanti, sta a Tevez fare la prima mossa con tutte le conseguenze che poi vi saranno soprattutto per lui. Te, mi sembra che la Juve gli abbia già regalato 2 mesi seguendo questa storia del Boca e della nostalgia di tornare in Argentina. Evidentemente il piano era altro. Non penso che sia un problema di Boca, penso ci potrebbe essere l'Atletico Madrid, esatto. Ci potrebbero essere altre, esatto, suggestioni. Spero, anzi, non ho dubbi che la Juve se lo farà pagare molto molto caro Tevez, così come è giusto che sia. Del resto va alla ricerca di emozioni diverse, ma più di quelle che gli ha fornito la Juve quest'anno non so dove possa trovarle. Contento lui, ma Allegri, così come Conte, Allegri sicuramente di più, gli aveva costruito un'immagine, anzi scusami, una squadra a sua immagine e somiglianza. Vedremo cosa, sì, ma anche un'immagine credo. Perché giustamente ricordava prima un amico, ma arrivava da un'esperienza pessima da questo punto di vista, Manchester, con appiccicata, esatto, l'etichetta dell'attaccabrighe anche, ma oltre che cosa che a Torino non abbiamo visto. Col Manchester non ha segnato un solo gol in Champions League, è andato a sfiorarla, è vero che l'aveva vinta col Manchester United, però con il Manchester City non aveva fatto veramente molto. E sicuramente qui alla Juve ha ottenuto la sua, questi due anni che sono stati i migliori della sua carriera. Aveva una società e un allenatore, una squadra a sua disposizione, ma sai, non lo so, mi sembra una scelta. Un conto è tornare a casa, a parte per i giovani, tornare al Boca Juniors anche per una promessa, un patto di fedeltà fatto con il padre. Andare in Europa alla ricerca di qualcosa di meglio della Juve, proprio dal punto di vista totale, ambientale, dell'organico, della città, eccetera, mi sembra un'impresa folle. Ma anche fuori delle motivazioni, la Juve non l'ha vinta la Coppa a Berlino, ha fatto un'impresa straordinaria ad arrivarci, ma la motivazione c'era per restare. Jackson Martinez, pochi minuti fa, l'agente del giocatore, è difficile dire a che punto siamo. Il Milan è stato qui, abbiamo parlato, ma non abbiamo ancora trovato un accordo definitivo, i tempi si allungano, non è solo per i soldi ma per l'importanza di Jackson, però questo vale per tutte le trattative di questo tipo, è normale che ci sia una tempistica per riflettere, la coppia con Ibra è un grande calciatore, sarebbe una grande coppia, ma quel che è certo è che siamo aperti a tutte le squadre. E quindi? Quindi c'è di mezzo Arsène Wenger e l'Arsenal, vogliono Jackson Martinez. Jackson Martinez tra l'altro fa parte della Doyen Sport, appunto la potente organizzazione che gestisce grandi campioni. Non penso sia una questione di soldi, è una questione di ambizioni. È vero, il Milan quest'anno non farà le coppe, ma anche nel caso di Jackson Martinez deve riflettere, perché soprattutto se non verrà Ibra, perché comunque non so se i due possono essere compatibili anche da un punto di vista caratteriale, gli verrebbe costruita una squadra addosso, gli verrebbe costruito forse il miglior vestito possibile per un grande campione come lui. E vedremo, però il fatto che, ripeto, Jackson Martinez è affiliato alla Doyen Sport è un dettaglio da non sottovalutare, perché Emilio Lucas solitamente quando si occupa di te tu ti devi preoccupare di lui quando magari non stai a certe regole o a certi patti, sì. Nel senso che personaggio ruvido, sono, di carattere, cioè... è uno che sicuramente sa fare gli affari molto bene, ha un'organizzazione estremamente potente, per quanto può creare delle perplessità, io sono molto pragmatico, per risollevare questo Milan in queste condizioni non poteva esserci soluzione migliore. Poi magari da un punto di vista deontologico e morale potrebbero essere fatte delle osservazioni diverse, ma a me onestamente interessa prima di tutto star bene e poi lavorare, e lavorare col Milan è una delle mie situazioni principali. Si può fare un gran Milan solo in questo modo, altrimenti non si potrà fare. Jackson Martinez ha l'opportunità di venire a giocare in un campionato molto importante come quello nostro, non dimentichiamo che 3 squadre italiane sono arrivate in semifinali nelle coppe, non ho notizie di squadre inglesi, almeno per quanto riguarda questa edizione di Champions League Europa League, vedremo che voglia ha, fossi lui rifletterei, certo che la coabitazione con Ibrahimovic potrebbe essere un po' complicata, vediamo, ma non è ancora chiusa questa partita perché Galliani non si è certo mosso per a vuoto e soprattutto ha l'indubbia alleanza di Emilio Lucas, e mi sembra più che sufficiente per ottenere un risultato importante. E sulla voglia del Milan, la voglia vera di riprendersi Ibrahimovic, o ha tenuto aperto il canale, Galliani ha risposto a quella telefonata e ha fatto quelle domande per eventualmente prepararsi la strada a un'alternativa? Ma guarda, bisogna vedere se poi tutto questo è veramente preciso e deciso. I grandi ritorni al Milan sono andati tutti male, vi parlo solo ed esclusivamente di palloni d'oro, Gullit, Shevchenko, Kakà, per non parlarne del Sacchi bis 96-97, del Capello bis 97-98. Io diffido, non parlo di minestra riscaldata perché non è il caso, stiamo parlando di un grande campione, però attenzione, perché poi con Ibrahimovic non è che gli devi vestire la squadra addosso, devi fare quello che vuole lui, anche quando non si gioca. È un grande attaccante, è un personaggio ingombrante, ha 34 anni, viene per vincere lo scudetto, forse farebbe meglio a cercare di vincere finché ha l'età la Champions League, ma anche questa è una scelta. Io sono per Jackson Martinez, ma ripeto, l'unico giocatore che rimpiango negli ultimi 10 anni, oltre al primo Shevchenko, cioè quello che ancora non pensava di andare in Inghilterra a studiare l'inglese, l'unico giocatore che veramente rimpiango al Milan è proprio Ibrahimovic. Ma non so quanto. Il giocatore in grado essere... di spostare 10-15 punti da solo. Questi sono punti veri. Vi ricordate? Nocerino assegnò 11 gol e Boateng 9 reti. Sono scomparse dalla storia del calcio, almeno per quanto riguarda il calcio che conta. Ed è stato solo ed esclusivamente il merito di Ibrahimovic se erano diventati quel Nocerino e quel Kevin Boateng. Grazie Furio. A voi, grazie, buon lavoro. Ciao, grazie Furio Fedele. Vi fate sentire l'altra faccia di Milano? Mancini sul mercato dell'Inter. Kovacic diventerà un campione. Diventerà un campione perché ha le qualità. Poi è chiaro che ha ancora delle lacune perché è giovane, però adesso è già migliorato molto giocando da mezzala, quindi credo che diventerà un campione. Resterà? Sì, io penso di sì. Al momento non c'è niente, quindi credo di sì. Mi hanno chiesto e io ho detto 8-9 così per dire, non è che sì, la prima cifra che mi è venuta in mente, per non dire 10. Gualtiero da Mantova, Gualtiero. Ciao. Ciao, prego. Niente, io volevo dire che secondo me il Milan sta sbagliando come negli ultimi anni ha fatto spesso tutto, perché sta cercando di puntare su giocatori ormai attempati, spendendo un sacco di soldi, tipo Jackson Martinez sarà forte finché ne voglia. Jackson Martinez ha 28 anni, però Gualtiero. Sì, è nel pieno della sua, diciamo, carriera agonistica, quello che ne vuole, però non è l'attaccante da Milan. Andiamo a paragonare quelli che sono stati gli attaccanti del Milan. Sì, però il Milan viene da una coppia Pazzini destro, prima c'è stato Torres. Non mi sembra che in questo momento si possa discutere l'apporto, la crescita che potrebbe dare uno come Jackson Martinez. Poi se si vuole tornare a Shevchenko, a Van Basten, si può fare qualunque tipo di operazione, però il Milan di oggi è quello che è arrivato decimo, undicesimo in questo campionato, Gualtiero. Cioè, se ragioniamo così va bene chiunque. Allora, a me è quello che fa arrabbiare tantissimo, che ho appena sentito, che ha rinnovato ancora il contratto Abate. È un giocatore che non si riesce mica a capire perché sia andato in nazionale, perché abbia fatto questa carriera. Se te guardi la partita del Milan, tutte le partite del Milan, lui butta via dai 15 ai 20 palloni a partita. Sì, credo che la qualità degli esterni italiani non sia eccelsa in questo momento. Credo che la qualità degli esterni italiani non sia eccelsa e questo probabilmente anche ha aiutato Abate a fare un certo punto di traiettoria di carriera. Grazie Gualtiero. Francesco da Perugia. Francesco. Salve, buonasera. Volevo fare un piccolo intervento per quanto riguarda la Juventus. Innanzitutto sì, ringraziando che da tifoso juventino tutti quanti. E sul caso Tevez penso che sia giunto il momento di stringergli la mano, ringraziarlo e puntare su altri, perché diciamo che già negli ultimi due mesi si è visto che non aveva più il carattere e la voglia combattiva che lo contraddistingue. Quindi... Sì, anche se io, Francesco, non penso che negli ultimi due mesi Tevez abbia tirato dietro la gamba pensando al contratto, pensando a un possibile trasferimento. Io penso che quello sia stato probabilmente un calo di condizione anche fisiologico e non è stato l'unico giocatore della Juventus ad arrivare a fine stagione con le gambe un po' pesanti. Resta poi tutto l'altro discorso e io l'ho detto, la Juventus secondo me già due mesi fa doveva chiarire con Tevez quale sarebbe stato l'epilogo di questa vicenda. Ferrero sul mercato della Samp. Senta Presidente, ma vuole prendere pure i Pazzini? No. Il pazzo rimanesse là. Okaka rimane presidente? No. Ah, va via anche lui? Sì. Poco mo bianco. Beh, non ha voluto firmare il contratto e per cui. Cassano? Parametro zero, non costa nulla. La lingua batte dove il dente duole. Prossimamente su questi schermi. Ah, quindi qualcosa si muove per Cassano, presidente? Beh, vediamo. Ed è sta a casa mia. Ah però, Se vendo Eder, mia moglie Emanuela se ne va da casa. E dopo come faccio? Il ragazzino è troppo piccolo, chi muore Eder? E come fa Ferrero se la moglie se ne va da casa? Magari di notte guarda la Coppa America. Saluto Franco D'Assisti, collega di Gazzetta TV. Ciao Franco. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Si comincia questa notte ore 1:30 con Cile-Ecuador. Mi pare di aver capito, non solo Neymar contro Messi, che pure è il grande classico di tutte le Coppe America, Argentina contro Brasile. Assolutamente, diciamo che un 70% dei giocatori più forti del mondo, almeno di quelli più apprezzati nella bilancia, insomma, dei gradimenti internazionali, sono lì in Cile, per cui poi bisogna vedere con quanta voglia saranno lì, con quante motivazioni. Però i sudamericani, quando cominciano a sentire il clima della Coppa America, si trasformano abbastanza. È una competizione che a volte magari viene più snobbata nelle convocazioni dei tecnici, dei commissari tecnici, che non nel campo, dove invece ci si trasforma e la voglia di dimostrare la superiorità rispetto agli altri paesi del continente è piuttosto alta. Penso che sarà così anche stavolta, perché ci sono tante squadre che devono togliersi qualche recente delusione di torno. Sì, un anno fa abbiamo visto un mondiale che per lunghi tratti è stato il mondiale delle sudamericane, quindi a livello di qualità lo spettacolo dovrebbe essere garantito. Ma sì, direi di sì, a livello di qualità, a livello anche climatico. Il Cile è un paese lungo e stretto, e quindi si gioca un po' a tutte le latitudini, soprattutto al nord farà abbastanza tempo, un clima abbastanza normale, diciamo abbastanza temperato. Verso sud dovrebbe fare abbastanza fresco, quindi insomma tutto sommato le condizioni per giocare sono le migliori, gli orari di gioco sul posto sono compatibili con l'umanità, magari un po' meno per noi che siamo qua. Non c'è di mezzo la FIFA, e quindi già questa è un discreto passo avanti. Questo è un discreto passo avanti, esatto. Noi qui chiaramente ce le vedremo tutte, noi su Gazzetta TV ve le proporremo tutte in diretta a qualsiasi ora. Il match più estremo è il secondo match del Brasile, che andrà in onda alle 2 di notte ora italiana, e lì insomma faremo uno sforzo. Ma se la signora Manuela sarà andata via di casa, un telespettatore Ferrero ce l'avrete di sicuro. Franco, io ti devo salutare, che siamo in chiusura. Questa notte 1:30 Cile-Ecuador. Parte Cile-Ecuador in diretta su Gazzetta TV, e poi domani in poi tutte le partite in diretta con tante repliche e tante rubriche a tutte le ore del giorno su Canale 59. Parte la Coppa America, perché noi eravamo orfani, un po' del calcio ci mancava, insomma, altro che finire tutto con la finale di Berlino. Finiamo noi qui invece, domani torna Carlo Genta con Pierluigi Pardo, sempre dopo il GR delle 14. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiori in regia. In redazione Gianmarco Ferronato, in regia. Pioli ha rinnovato fino al 2017 con opzione fino al 2018, e Zenga da oggi è ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria. Ciao. Secondo me questo è tutto da rifare.